Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono oggi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora, le ferie, ahimè, ce le siamo fumate, come si dice, e c'è una categoria di persone che non sono i lavoratori, che ormai stanno già quasi tutti lavorando praticamente, ma c'è la categoria degli studenti che si sta preparando per la scuola. In particolar modo affrontiamo le scuole superiori, che sono quelle che forse comportano il maggior dispendio di soldi per i genitori. Sì, ecco, infatti diciamo, Francesca, adesso il 12 cominciano le scuole qua in Veneto, le scuole superiori ovviamente, e però diciamo che la spesa della famiglia post-vacanza è già cominciata da qualche giorno, nel senso che molte famiglie venete hanno dovuto già mettere mano al portafoglio ovviamente per il classico salasso di inizio stagione scolastica, cioè il salasso dei libri, ma anche degli accessori, gli zaini, il diario, gli astucci, insomma. Diciamo che ogni settembre per le famiglie, soprattutto chi ha più di un figlio che in età diciamo scolastica da scuola superiore, è un periodo difficile a livello economico, molto difficile, e noi come Adico, come facciamo ogni anno, abbiamo monitorato i prezzi di alcune scuole cercando anche di variare, nel senso che noi abbiamo monitorato un liceo classico, uno scientifico, poi una scuola professionale e un istituto tecnico. Beh Francesco, diciamo che anche in un periodo in cui andiamo verso un futuro di digitalizzazione completa, a scuola si continua ad avere il cartaceo, i libri cartacei che costano molto. Noi abbiamo calcolato il classico salasso di inizio anno, la spesa per ogni famiglia ruota attorno ai 500 euro a figlio, questo tra libri e accessori vari, soprattutto diciamo lo zainetto che forse è l'elemento più costoso, e per questo insomma ci ritroviamo ancora una volta a dover parlare appunto del salasso di inizio anno, quando noi speriamo che in futuro succeda come succede in alcune scuole, soprattutto private in questo caso, che danno dei tablet in comodato d'uso gratuito agli studenti, e quindi in linea di massima non c'è nessuna spesa per le famiglie per quanto riguarda i libri. Ecco, questa è una cosa assolutamente interessante, come è vero che già da un bel po' di giorni nelle televisioni, soprattutto nelle televisioni dedicate ai ragazzi, le pubblicità proprio di zaini, di accessori sono al top, insomma, sono la prima cosa proprio a dimostrazione che effettivamente questo è il periodo in cui si vanno a comprare queste cose, e ahimè le paghi poi anche parecchio salate. Magari conviene certe volte in periodi diversi dell'anno, quando ci sono gli zaini, uno dice beh adesso non mi serve, invece fare un pensierino, comprarli in anticipo o in ritardo come si dice, e pagarli molto meno. Sì, ecco, diciamo che su tutte queste cose qua giustamente su cui stiamo ragionando si possono dire molte cose, tipo lo diciamo sempre, attenzione, chiaramente i ragazzi vogliono per esempio lo zaino griffato, vogliono il diario ovviamente della marca che va al momento, anche là sai dipende molto, nel senso ne abbiamo monitorato, abbiamo visto che lo zaino può costare tra i 30 e i 50 euro e anche di più, è ovvio che noi diciamo ecco non andate a spendere 70-80 euro per uno zaino griffato, però non spendete neanche 15 euro per uno zaino che dopo due giorni insomma non riesce più a reggere il peso dei libri, ci vuole sempre un po' di oculatezza. Noi abbiamo comunque riscontrato delle anomalie, delle cose che insomma continuano a non andare, ci sono delle scuole che vanno oltre il tetto di spesa fissato dal Ministero, ci sono purtroppo tante scuole che prevedono nuove adozioni di libri, e questo Francesca è la cosa più antipatica, perché impedisce la possibilità di scambiare i libri usati ovviamente, e là chiaramente permettono un risparmio del 50%, però chiaramente se noi continuamente ogni anno mettiamo delle nuove edizioni obblighiamo le famiglie a comprare comunque dei libri nuovi. Ci sono delle cose che ci danno un po' fastidio sinceramente, tipo il fatto che molte scuole per evitare di superare il tetto di spesa fissato dal Ministero nelle liste mettono 2-3 ebook, ok, che quindi costano molto meno rispetto al cartaceo, però poi il professore solitamente l'ebook non lo vuole, vuole il cartaceo, quindi alla fine i genitori sono costretti a comprarsi il libro di carta, però nelle liste la spesa viene rispettata rispetto a quanto fissato dal Ministero. Insomma, ci sono ancora tante cose che non vanno. Tu prova a pensare, Francesco, comunque una persona con due figli in età appunto da scuola superiore ha una spesa di 1000 euro subito a settembre, subito finite le vacanze, e non è una cosa piacevole. Qualcuno proprio non ce la fa ad affrontarla. Infatti ci sono situazioni di famiglie che hanno difficoltà a comprare tutti i libri subito e sono costretti a comprarli un po', diciamo, nell'arco del tempo, nei primi 2-3 mesi di inizio scuola. Quindi noi lanciamo un appello, lo stiamo facendo da tempo, però in questo momento sembra ancora più ovvio, visto che appunto è tutto digitalizzato. Noi diciamo, cerchiamo di far sì che a poco, insomma, la spesa sia ridotta al minimo, perché non è possibile tornare dalle vacanze e oltre a tutte le spese che ci sono, tasse, varie spese di vario tipo, poi insomma si è appena stati in vacanza, solitamente si è speso un po' anche in vacanza, è molto dura per tante famiglie dover tirar fuori subito 500, se non 1000 euro, se non 1500 addirittura se uno ha tre figli, quindi sono spese che continuano ad essere esagerate per quanto ci riguarda. Speriamo che le cose migliorino, che ci sia più attenzione anche su queste cose che hai appena segnalato, e da parte del consumatore che ci sia maggiore attenzione, perché poi se alla fine le cose che costano di più le lasciamo lì, forse le cose cambieranno, non lo so, staremo a vedere. Intanto grazie all'Adico, grazie a Gianluca Codognato, ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.